Dopo aver ascoltato nella prima parte del programma la storia della 25enne giornalista Marina Freri, a lavoro a Sydney, restiamo in Oriente, spostandoci però in Cina, dove ci facciamo raccontare dalla sua viva voce la storia professionale di Silvia Agostinetto, 26 anni, PR manager e addetta stampa di Novo, azienda con sede nella capitale economica cinese. L'abbiamo incontrata lo scorso febbraio. Nome: Silvia. Cognome: Agostinetto. Età: 26 anni. Città di origine: Jesolo Lido, in provincia di Venezia. Studi: laurea specialistica in traduzione tecnico-scientifica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Shanghai. Perché? Alla ricerca di opportunità di lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Relazioni e comunicazione con la stampa locale e internazionale. Dove? Novo, distributore cinese di marchi di abbigliamento europei. Tornerai? Mi piacerebbe tornare. Mi piacerebbe rientrare in Italia tra qualche anno, ma sono molto timorosa verso la mia carriera futura. Silvia, partiamo dal finale della lettera che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it per una domanda che farà da sfondo alla nostra puntata. Quanto, cioè, la professionalità acquisita all'estero, in particolare nei nuovi paesi emergenti, può costituire un volano verso il rientro di un paese che solo da poco pare aver scoperto la globalizzazione? Voi siete la punta di diamante di una giovane classe dirigente all'estero. Hai l'impressione che il tuo paese stia venendo a cercarvi per valorizzarvi? No. Non solo l'impressione che l'Italia nel suo insieme non si stia interessando ai giovani lavoratori all'estero, ma penso anche che esista una oggettiva difficoltà di contatto tra le imprese italiane che tendono verso la internazionalizzazione, che quindi sono alla ricerca di figure che abbiano maturato esperienza all'estero, e profili come il mio che stanno facendo questa esperienza nei paesi stranieri. Iniziamo col tuo percorso di studi. Dopo la maturità scientifica ti iscrivi alla Facoltà di Lingue e Culture dell'Asia Orientale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Cosa ti ha portato verso l'Estremo Oriente? Ho pensato di approfondire lo studio di una lingua un po' più complessa come il cinese, prevedendo anche che in Oriente si prospettavano opportunità di lavoro molto più ampie rispetto alla nostra Europa. Nella laurea specialistica ti sposti verso la traduzione tecnico-scientifica cinese-inglese. Vorrei anche sottolineare la tua scelta vincente di trascorrere due periodi all'estero durante gli studi, prima a Copenaghen, poi a Shanghai. Ci racconti quanto sono stati utili questi periodi per gettare le basi del tuo percorso post-laurea? Se l'esperienza di Copenaghen era stata dettata dalla voglia di uscire per la prima volta fuori casa, l'esperienza di Shanghai invece è stata più mirata ad un miglioramento del mio percorso accademico e professionale. La tua storia ci offre l'occasione per parlare dello scollamento drammatico tra università e mondo del lavoro. Secondo te i nostri atenei sono attrezzati per orientare gli studenti al percorso di carriera successivo? Assolutamente no, già avevo notato questo gap al termine del mio percorso triennale in lingue e culture dell'Asia orientale, corso che allo studio della lingua affiancava molti esami di letteratura italiana, linguistica, storia dell'arte, che per quanto li ritenessi interessanti non mi sembravano utili per gettare le basi di una carriera futura. Il fatto è che esistevano degli stage obbligatori, ma vogliamo spiegare quanti eravate a chiedere lo stage, quante aziende italiane in Cina erano disponibili e soprattutto a quanto ammontava il rimborso spese? Ci vennero segnalate solo una decina di nominativi di aziende per una quarantina di studenti e chiaramente nessun tipo di rimborso spese o remunerazione. Il sistema universitario in Italia mi ha fornito ben pochi strumenti per prepararmi adeguatamente al mondo del lavoro. Una volta conclusa l'università mi sono sentita una frustrata, conoscevo perfettamente il cinese ma non sapevo cosa avrei voluto fare nella vita. Silvia, succede questo anche ai tuoi coetanei danesi, solo per fare un esempio? No, assolutamente. Durante il mio periodo di studi in Danimarca frequentavo i corsi di lingua cinese con studenti locali che avevano solo un anno più di me. E ricordo che per tutti loro l'università aveva degli agreement con aziende operative in Cina e questi ragazzi alternavano periodi in Danimarca e periodi in Cina. Cambio paese, cambio continente. Nel mio caso specifico partii per la Cina senza alcun appoggio e alcuna conferma di stage che alla fine trovai da sola in loco. Come canta Giacomo Lariccia, scegli di cambiare non solo paese ma anche continente. È stata dura, Silvia, mollare tutto e partire completamente da sola per fare rotta verso Shanghai. Dove e come hai trovato lo stage? Nonostante il timore iniziale non è stata dura trasferirmi a Shanghai. Lo stage l'ho trovato inviando il mio curriculum vitae a tantissime aziende italiane. Anche in questo caso le risposte di disponibilità a un colloquio sono state poche. Nel 2010 ti laurei e riparti però immediatamente per la Cina. Non hai neppure considerato per un momento l'idea di fermarti in Italia? No, Perché sin dalla prima esperienza di stage a Shanghai mi si prospettavano rispetto all'Italia aspettative che capii non potevo non provare a percorrere. Ad esempio lavorare a contatto con alte cariche dello Stato o conoscere personalmente grandi manager internazionali. A 20 anni? Queste sono cose a 24 anni. Sì. Queste sono cose che non sarebbero mai potute accadere a una ragazza di 24 anni in Italia alla sua prima esperienza lavorativa. Il ritorno a Shanghai ti vede ovviamente alla ricerca di un lavoro. Come si cerca impiego in Estremo Oriente? Il curriculum. Lo so, sembra facile, detto così sembra facile, in Italia non è così, lo sai. Io sì, tutti i lavori che ho trovato all'estero li ho trovati mandando appunto la mia candidatura e rispondendo ad annunci di lavoro in internet. E dall'aprile dello scorso anno sei PR manager, in particolare ti occupi delle relazioni con la stampa di Novo, che è distributore cinese di marchi di abbigliamento europei. Allora, come hai trovato lavoro per loro e c'è meritocrazia nell'accesso all'impiego in Cina o devi conoscere qualcuno? Ancora una volta inviando la mia candidatura ad un sito di annunci di lavoro per cinesi, quindi per persone locali. Ovviamente mi sono rivolta a più aziende, alcune le ho visitate personalmente e ho sostenuto più colloqui. Ho scelto poi l'azienda che mi sembrava più interessante sia per la tipologia di business trattato che anche per la diversità di relazioni e contatti in cui sarei stata coinvolta. Due riflessioni sulla Cina. La prima, è a tuo avviso il paese del futuro in termini di crescita economica e opportunità? La Cina è un treno che sta viaggiando davvero rapidamente, che quindi consente di guardare con ottimismo al futuro. È un paese per tanti versi ancora emergente, ma che sta indirizzando copiose risorse su due grandi aree di grandissima valenza strategica. La preparazione scolastica e universitaria dei giovani e la ricerca e l'alta tecnologia. Quanto è competitivo il mercato del lavoro cinese per un giovane europeo che vi si trasferisce adesso? Il mercato del lavoro è molto competitivo, venire oggi in Cina per lavorare è molto diverso rispetto a 10 anni fa perché è ormai un paese all'avanguardia. La conoscenza della lingua cinese per un espatriato è valutata come un valore aggiunto. Tu ci scrivi, sono sicura che in Italia il processo di apprendimento sarebbe stato molto più lento. Partiamo da qui, dai feedback che ricevi dai coetanei che arrivano in Cina. Quale Italia ti dipingono in termini di crescita, valorizzazione e opportunità dei suoi giovani talenti? Tra i miei coetanei che sono rimasti in Italia avverto una forte difficoltà a trovare lavoro. Sicuramente per noi è impossibile pensare di rientrare in Italia e mantenere la nostra posizione. Credo che l'età media per un addetto stampa in Italia sia intorno ai 30 anni. Personalmente hai già provato a riallacciare ponti con l'Italia? Sì, continuo a mandare curriculum, rispondere alle offerte di lavoro, ma attualmente non ricevo risposta. Non mi sorprende. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Premetto innanzitutto che amo l'Italia, la vedo tanto vecchia ed in generale priva di dinamismo. I cambiamenti dovrebbero essere tantissimi e coraggiosissimi. Per esempio, trovo pazzesco che si dia così poca attenzione, che non ci siano risorse per una scuola efficiente, un'università moderna e competitiva, così come vengano lasciati nel limbo troppi, tantissimi giovani. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto diretto e aperto con i nostri ascoltatori, rubrica che ci accompagnerà per tutta l'estate. Per cominciare vi ricordiamo il nostro manifesto dei giovani talenti che resterà aperto e sottoscrivibile online fino a metà settembre. Siete tutti invitati a contribuire sul web. Inviateci le vostre proposte per rendere l'Italia un paese di circolazione dei talenti. Sei un giovane professionista under 40 all'estero? Beh, indicaci un motivo che ti porterebbe a tornare. Sei un giovane professionista under 40 in Italia? Indicaci un motivo che ti aiuterebbe a restare. Inviateci le vostre proposte specificando il paese di residenza e nell'oggetto della email manifesto a giovanitalenti@radio24.it. In autunno renderemo note le migliori idee online e on air. Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Veniteci a visitare sul gruppo aperto all'interno del portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti. Soprattutto non dimenticate di visitare il blog ufficiale aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava, cui postiamo le lettere, gli spunti e le riflessioni che ci inviate settimanalmente per email. Giovani Talenti rilancia anche la campagna d'estate. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nei prossimi mesi. Se siete under 40, espatriati nei più svariati settori professionali per vedere riconosciuti merito e competenza all'estero, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo le vostre lettere.